dati sono riferiti alla fine del 2003, i detenuti rispetto all'anno precedente sono in lieve calo per effetto principalmente dell'indultino che ha fatto uscire qualche migliaia di persone, ecco. Anche se va detto che nel primo semestre del 2004 la cifra, il numero dei detenuti è tornato ad aumentare di circa 1000 unità in 6 mesi, quindi ci stiamo riavvicinando nuovamente ai massimi storici che erano stati raggiunti all'agosto del 2003, prima dell'entrata in vigore dell'indultino, quindi eravamo a quota 56.000. L'indice di sovraffollamento delle carceri italiane rimane globalmente superiore ancora al 30% della capienza, quindi nelle carceri italiane, secondo i criteri stabiliti dalla Comunità Europea, ci dovrebbero essere 41.000 posti e i detenuti appunto variano tra i 56 e i 57.000. Condizioni particolari la vivono i detenuti immigrati, che sono sempre più numerosi. Adesso stiamo raggiungendo terzo praticamente, ormai siamo a un 31,7-32% di detenuti immigrati, quindi in questo in aumento che ormai è nell'ordine del 2% ogni anno, ecco, di detenuti immigrati in più rispetto al totale delle persone detenute. Riguardo un altro dato interessante, quello che riguarda le donne, sono circa il 5%, poco meno del 5% di tutti i detenuti, il loro dato è abbastanza stabile e altrettanto è abbastanza, diciamo così, invariata il tipo di popolazione detenuta femminile, cioè sono soprattutto ragazze tossicodipendenti e straniere ad essere tra le recluse. Un ulteriore dato particolare è quello delle detenute madri. Ecco, in Italia ci sono ancora gli asili nido penitenziari dove ci sono i bambini fino a 3 anni che senza colpa ovviamente sono reclusi assieme alle madri, ecco, nonostante esista una legge che è la legge 40 del 2001, approvata anche significativamente nella lettura definitiva il giorno 8 marzo, ecco, è una legge che prevede appunto la missione agli arresti domiciliari delle detenute con i bambini inferiori, con di età inferiore a 3 anni. Ci sono circa 50 bambini che attualmente scontano la pena assieme alle madri in uno degli istituti adibiti a questo tipo di reclusione, quindi ad esempio da noi c'è Venezia che ha un asilo nido dove ci sono questi bambini. I detenuti minori, e con questo credo che concludiamo il quadro generale, i detenuti minori sono in numero variabile dai 6 ai 700, ecco, sono rappresentati ormai per la maggior parte, quindi più della metà di loro sono stranieri. Il dato non è uniforme sul territorio nazionale perché al nord sono davvero la stragrande maggioranza, quindi l'80% dei minori detenuti al nord sono stranieri, mentre il dato delle regioni del centro e del sud è opposto perché qui sono ancora prevalenti gli italiani. Va detto che questa situazione è determinata dal fatto che la legislazione minorile consente per gli italiani un'ammissione a misura alternativa alla detenzione anche nella fase in cui sono ancora giudicabili, non soltanto dai definitivi. Queste misure non possono essere applicate o lo sono difficilmente agli stranieri per mancanza di strutture sul territorio adibite all'accoglienza e per mancanza spesso delle condizioni perché gli stranieri, quindi di una casa propria, di una famiglia propria con la quale possono andare.